Ho il grande privilegio di parlare spesso del Vangelo di Gesù Cristo, ma non sono il solo. Ci sono quelli che predicano Cristo per invidia, senza sincerità, quelli che lo predicano per onorarlo, e altri presentano un altro Evangelo che non è neppure un Vangelo, cioè una buona notizia. Fra questi ultimi sono i seguaci della Torre di Guardia, cioè i testimoni di Geova. Da un lato sono felice di parlare con i testimoni di Geova perché conoscono in parte la Bibbia. Da un altro lato, però, una conversazione con loro lascia un amaro in bocca perché hanno sviato quasi totalmente il senso delle parole della Scrittura. Due di queste parole sono morte e vita. Per i testimoni di Geova, i morti sono assolutamente inconsci, non sanno nulla, e vivono nella mente di Dio, mentre la parola vita è semplicemente esistenza. Da questo presupposto, essi danno un significato all'espressione vita eterna, che stravolge il pensiero di Dio. Perciò è molto importante avere un'idea chiara di che cosa significhi l'espressione vita eterna, sia perché la troviamo nella parola di Dio decine e decine di volte, sia perché le parole, e di conseguenza i concetti, determinano il nostro immaginario. Se io parlo di un albero, i miei ascoltatori hanno in mente una pianta legnosa con un fusto colonnare. Se invece mi riferisco ad un albatro, chi mi ascolta comprende che sto parlando di un volatile. Su questo non ci piove, perché convenzionalmente abbiamo deciso e accettato di dare ai nomi albero e albatro, rispettivamente alla pianta legnosa e al volatile. Il problema sorge riguardo a espressioni come vita eterna, le quali sono state proferite 2000 anni fa. Che cosa è la vita eterna? Che immagine produce nella nostra mente la parola vita eterna? Per i testimoni di Geova, la vita eterna è una situazione di beatitudine e di gioia. È vivere in armonia con il prossimo e il creato, cosa questa che sarà possibile solo in un futuro. E a questo essi aspirano. La cosa non mi avrebbe sorpreso più di tanto se non fosse che conosco delle persone che si professano cristiane e hanno un concetto della vita eterna simile a quello dei testimoni di Geova. È indispensabile allora eliminare errori di concetti che producono nella nostra mente immagini distorte. Cos'è dunque questa vita eterna? E forse un'esistenza migliore senza fine, un luogo di beatitudine, di pace, di gioia, di felicità, e forse un insieme di regole, e appartenere al regno di Dio? Ad alcuni sembra impossibile, ma la vita eterna è una persona. L'Apostolo Giovanni, nella sua prima lettera, non poteva essere più chiaro. Se noi accettiamo la testimonianza degli uomini, la testimonianza di Dio è ancora più grande, poiché questa è la testimonianza di Dio che egli ha dato circa il suo Figlio. Chi crede nel Figlio di Dio ha questa testimonianza in sé. Chi non crede a Dio lo ha fatto bugiardo, perché non ha creduto alla testimonianza che Dio ha reso circa suo Figlio. E la testimonianza è questa: Dio ci ha dato la vita eterna, e questa vita è nel suo Figlio. Chi ha il Figlio ha la vita, chi non ha il Figlio di Dio non ha la vita. Ho scritto queste cose a voi che credete nel nome del Figlio di Dio, affinché sappiate che avete la vita eterna e affinché continuiate a credere nel nome del Figlio di Dio. 5:9-12. Secondo l'Apostolo Giovanni, Dio ci ha dato la vita eterna, e questa vita è nel Figlio di Dio. Chi ha il Figlio ha la vita, chi non ha il Figlio non ha la vita. Dio non dà e non può dare a chi crede in Cristo una vita che sia staccata da Lui, perché Cristo è la vita stessa. Mentre un padre, quando dona una bicicletta a suo figlio, gli dona qualcosa che non è parte della sua natura, invece il dono di Dio a chi pone fede nel suo figlio è Gesù Cristo stesso, e, ricevendo lui, il credente riceve tutto ciò che gli appartiene e fa parte di Cristo. L'Apostolo Paolo, in un inno di vittoria, non ha potuto contenere la seguente riflessione. Che diremo dunque circa queste cose? Se Dio è per noi, chi sarà contro di noi? Certamente colui che non ha risparmiato il suo proprio figlio, ma lo ha dato per tutti noi, come non ci donerà anche tutte le cose con lui?